Stai su Radio Wombat, questa è Radio Wombat. Radio Wombat. 8 Hertz. Grandi, che ci state seguendo stasera. Chi ci sta seguendo è grandiosissimo. E stasera a 8 Hertz continuiamo con il sottoprogrammino che ci piace tanto, che è La Rotella. Questo è il volume 5. Attenzione, siamo arrivati veramente a già un quinto episodio di una sottotrasmissione, insomma. Per chi non avesse mai sentito La Rotella, qua all'interno di 8 Hertz, che naviga sulla musica sperimentale e su qualsiasi tipo di musica, ma con un atteggiamento un po' particolare. Insomma, per chi non conoscesse La Rotella, spiego cos'è. È un'improvvisazione fatta da due persone di musica elettronica, con pochi mezzi, insomma, magari un synth o due, un effetto, insomma, poche robe, perché in radio, insomma, non ci si entra, se no. E la cosa è, quindi, è la libertà e l'anonimato. Non si sa chi suona, ogni puntata c'è sempre un ospite o due, due, diciamo. E il fatto che sia anonima mi è piaciuto provarla così, fa in modo che chi sta suonando sperimenti in un modo più ardito ed estremo, insomma, senza che faccia figuracce, perché viene riconosciuto, insomma. E devo dire che funziona, insomma. I primi 4 volumi sono stati molto molto interessanti, gli ospiti sono rimasti contenti, e quindi, ripeto, La Rotella è improvvisazione sintetica, elettronica, libera e anonima. E su questo iniziamo forse a sentire delle note dell'ospite, delle note o dei tappeti o dei droni o dell'ambiente o del rumore, che ancora non si sente, lui ride, e quindi a dopo ci sentiamo, forse non ci sentiamo neanche. Intanto godetevi queste sperimentazioni, questi tentativi forse fallimentari di fare qualcosa di interessante in una radio cittadina che è Firenze. Buon ascolto. Oh, my God. Thank you.

Radio Wombat, La Rotella, volume 5. Grazie, grazie. Alla settimana prossima, a presto, grazie.